Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ennesimo episodio di tensione in un pronto soccorso della regione, accaduto all'ospedale di Tolmezzo, dove il parente di una paziente ricoverata ha inveito con accuse e minacce pesanti nei confronti di un medico prima di darsi alla fuga. E torna d'attualità il tema della sicurezza degli operatori sanitari. Una donna affetta da sclerosi multipla da mesi attende una risposta dal Comitato Etico della Regione per l'accesso al suicidio assistito, una conferenza stampa dell'Associazione Luca Coscioni nel pomeriggio davanti al Tribunale. Un nuovo modo di fare sanità che approfondisca il contatto umano tra medico e paziente attraverso un ripensamento degli attuali modelli organizzativi e gestionali e quanto si propone il nuovo corso attivato dall'Università di Udine, il primo di questo tipo in Italia. Protezione Civile è partita da Palmanova la nona colonna di aiuti diretti a Forlì. 24 persone, volontari e funzionari saranno impegnati nella pulizia di abitazioni e scantinati e proseguono gli interventi nell'archivio comunale e nella biblioteca vescovile. A Pordenone uno studio di fattibilità ha l'obiettivo di portare il polo universitario nella zona del cosiddetto Bronx. Prende il via stasera allo stadio Tegil di Lignano Sabbia d'Oro un nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, in cui la pop star festeggerà i suoi 20 anni di successi. Previsti almeno 20.000 spettatori. Le 12:32, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bears e Daniele Lettig per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 7 giugno. In apertura dunque la cronaca che registra purtroppo un altro episodio di forte tensione che è accaduto in un pronto soccorso della regione. Stavolta all'ospedale di Tolmezzo, dove il parente di una paziente ricoverata ha inveito con accuse e minacce pesanti nei confronti di un medico prima di darsi alla fuga. Un fatto che quindi fa tornare in primo piano il discorso sulla sicurezza degli operatori sanitari nello svolgimento del loro lavoro. Minacce, accuse, insulti. Un'aggressione verbale da parte del parente di una paziente al pronto soccorso dell'ospedale di Tolmezzo. A farne le spese, ieri nel tardo pomeriggio, un medico esperto. Il dottore è riuscito a mantenere la calma, ma l'episodio ha comunque creato preoccupazione e paura, anche tra gli altri operatori presenti e i pazienti, ci dice il direttore del pronto soccorso, Pierpaolo Pillinini. La donna ricoverata era stata trasferita nel pomeriggio di ieri da Gemona. Il ritardo nelle comunicazioni sul suo stato di salute, dovuto a un iperafflusso di accessi, 17 in 2 ore, tra cui 5 pazienti di una certa gravità, ha scatenato la reazione dell'uomo, un italiano che si è dato alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri della radiomobile. Il verbale e le dichiarazioni dei testimoni verranno trasmesse alla procura. A breve, ci confermano questura e azienda sanitaria, aprirà un posto di polizia in pronto soccorso, come già avvenuto all'ospedale di Udine. Le tensioni sono all'ordine del giorno, indica Pillinini. Il momento è particolarmente delicato. C'è il problema dei tempi d'attesa nel pronto soccorso, aspettando che si liberi un letto in reparto, come è successo in questo episodio, e di un'utenza che non sa quante criticità stiano affrontando contemporaneamente i medici in quel momento. Su questo sono in corso interlocuzioni con INSIEL per dotare la struttura di uno schermo in cui i parenti possano seguire il percorso in nosocomio di chi accompagnano. C'è poi l'annoso tema del numero di effettivi in corsia. A Tolmezzo la situazione è migliore che altrove, ma a fronte di un organico teorico di 14 medici si lavora in 10 più il dirigente. Difficoltà anche tra le file degli infermieri, ma si sta lavorando per ritornare a regime, ci viene detto. Da ultimo il bisogno di salute di un territorio, quello carnico, definito da Pillinini fragile dal punto di vista assistenziale. Meno medici di base che possano prendere in carico i problemi della popolazione si tramuta in un 40% di accessi al pronto soccorso da codice bianco, ovvero pazienti che dovrebbero essere gestiti in altra sede. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Occupiamoci ora del caso di una donna di Trieste affetta da sclerosi multipla che da mesi attende una risposta dal Comitato Etico della Regione per avere accesso al suicidio assistito. Una conferenza stampa dell'Associazione Luca Coscioni è prevista nel pomeriggio davanti al Tribunale. Questo pomeriggio alle 14:45 davanti al Tribunale di Trieste l'Associazione Luca Coscioni ha indetto una conferenza stampa nella quale si racconterà una vicenda molto delicata, il caso di una donna di Trieste di 55 anni affetta da sclerosi multipla, patologia irreversibile senza terapia, che ha richiesto lo scorso novembre al Comitato Etico Regionale di valutare le sue condizioni per l'accesso al suicidio assistito. Non avrebbe ricevuto risposta da 7 mesi. Noi siamo venuti all'Università di Trieste, al Dipartimento di Giurisprudenza e siamo qui con il docente di diritto privato Angelo Venchiarutti. La legge cosa dice? In quali casi si può accedere a questo trattamento di fine vita? Purtroppo una legge non c'è in questo caso, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che risale ormai al 2019, in cui, dichiarando l'incostituzionalità di quella norma sul suicidio assistito, la Corte Costituzionale ha indicato quali sono i presupposti perché sia appunto accettata una richiesta di questo genere, in particolare se la persona è in presenza di una patologia irreversibile, appunto deve essere attivata tutta una procedura per poter consentire di realizzare le sue indicazioni. Ci sono dei tempi di risposta? La donna lamenta il tempo passato. Cosa può fare questa donna ora? E tempi non sono indicati, tant'è, se mi si consente di ricordare, che pochi giorni fa in Regione Veneto è stata approvata una mozione da parte della Giunta regionale che impegna appunto la Regione, a larga maggioranza è stata approvata, che impegna la Regione affinché queste richieste siano adottate in tempi rapidi. E l'iniziativa che oggi, cui ci troviamo di fronte, della signora di Trieste, ricorda quella che è stata portata avanti qualche tempo fa nelle Marche, dove appunto è stato necessario un intervento addirittura del Tribunale di Ancona per indurre l'azienda sanitaria ad adottare questa procedura. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un nuovo modo di fare sanità che approfondisca il contatto umano tra medico e paziente attraverso un ripensamento degli attuali modelli organizzativi e gestionali. E quanto si propone di fare il nuovo corso attivato dall'Università di Udine, il primo di questo tipo in Italia. L'obiettivo a cui puntano i suoi promotori sta già nel nome del Master Post Laurea all'umanizzazione nella gestione e organizzazione del sistema sanitario nazionale. È nato partendo dall'idea che occorre cambiare paradigma. La salute non è costituita solo da una serie di prestazioni, ma è essa stessa una relazione. Serve quindi attivare un nuovo percorso che preveda un nuovo modo di fare sanità più empatico e con la presa in carico globale del paziente attraverso la revisione dei modelli organizzativi e gestionali, intersecando le competenze tecniche con quelle relazionali, spiega il professor Massimo Robioni, direttore della clinica maxillofacciale dell'ospedale di Udine ed ora anche del nuovo corso attivato dall'Università Udinese, primo in Italia. La sua idea, condivisa con la project manager Elisabetta Occello, risponde agli obiettivi del PNRR nell'ambito della salute ed ha come partner l'azienda ospedaliera universitaria di Udine, un master estremamente importante perché parla dell'umanizzazione, questione al centro del vivere di questo tempo, sottolinea l'assessore regionale alla salute Riccardi, intervenuto alla presentazione. Rispetto a tutti i problemi da risolvere, il modo in cui ci approcciamo e le risposte appropriate diventano cruciali nella loro soluzione, aggiunge Riccardi. Nello specifico si intende formare figure professionali capaci di assumere ruoli di direzione, gestione, coordinamento e consulenza progettuale integrata nelle aziende sanitarie e negli enti del terzo settore per garantire la presa in carico globale del paziente in termini di prevenzione, diagnosi precoce, invecchiamento attivo e livelli essenziali di assistenza sociosanitaria secondo i principi di universalità e di sostenibilità della cura, investendo sulla relazione intersoggettiva e sull'umanizzazione. Udine, Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca. Due persone sono state soccorse questa mattina dai sanitari a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la statale 13 Pontebana nel territorio comunale di Tricesimo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati una moto e una vettura. La persona di giovane età che viaggiava in sella alla due ruote è rovinata sull'asfalto rimanendo ferita. Una seconda persona giunta sul luogo è stata accolta da un malore. Sul posto sono intervenuti l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso e sono stati attivati anche i vigili del fuoco. Le due persone sono state trasferite all'ospedale di San Daniele del Friuli in condizioni non gravi. Una persona sconosciuta telefona alla potenziale vittima del raggiro e avvisa che il figlio o figlia oppure nipote ha avuto un grave incidente stradale. Ha investito delle persone che si trovano in condizioni critiche all'ospedale. Spesso il truffatore conosce nome e cognome dei membri della famiglia colpita, poi chiede soldi in contanti o gioielli per chiudere la pratica in breve tempo e senza conseguenze. Il criminale avvisa che nel giro di pochi minuti un operatore si sarebbe presentato alla porta per riscuotere la somma e salvare così il proprio caro da conseguenze penali. La polizia locale di Pordenone e Cordenons avvisa i cittadini di prestare la massima attenzione e informa di aver ricevuto parecchie segnalazioni di residenti nella giornata di ieri. Cittadini spaventati dalle telefonate ricevute, tutte uguali, in cui veniva riferito che un proprio caro si trovava in condizioni critiche al pronto soccorso. Le persone maggiormente colpite sono gli anziani, spesso soli in casa. La raccomandazione è di non dare soldi a nessuno e chiamare tempestivamente le forze di polizia. È partita questa mattina dalla sede di Palmanova della Protezione Civile la nona colonna mobile regionale diretta in Emilia-Romagna, dove da 3 settimane squadre di volontari sono impegnati nella pulizia di scantinati, residenze private, strade e capannoni da acqua e fango. Nuova partenza questa mattina dalla sede di Palmanova della Protezione Civile di una colonna mobile di soccorso diretta in Emilia-Romagna, la nona nelle ultime 3 settimane, e altre ne seguiranno. Un funzionario e 24 volontari provenienti dai gruppi comunali di un po' tutta la regione stanno raggiungendo Forlì, dove il contingente della nostra Protezione Civile è impegnato ormai da giorni, dopo aver prestato soccorso a Ravenna e Predappio. Con questa partenza sono già 130 volontari operativi nelle ultime settimane, con oltre 70 mezzi impiegati e attrezzature tecniche speciali, tra cui una mega idrovora, unica in Italia, impiegata a Ravenna e Forlì. Oggi con loro sono partiti anche pompieri volontari da Moggio e Trieste. Mentre i primi giorni si è operato per la messa in sicurezza di persone, case, scuole e aziende, a Forlì l'azione si è concentrata nel recupero dell'archivio comunale e di migliaia di libri antichi e rari della biblioteca vescovile e dei suoi locali. Tra i volontari regionali anche 2 pensionati del Ministero dei Beni Culturali, che in questa azione stanno assicurando la loro competenza in materia. La scelta delle persone da inviare in Romagna è stata orientata in base alle competenze specifiche dei volontari e al carattere degli interventi da mettere in atto. Il lavoro della nostra Protezione Civile continuerà anche con la mappatura delle centinaia di frane che stanno interessando il territorio. Il ringraziamento per il prezioso lavoro svolto è stato portato di persona dal governatore della Regione Fedriga e dall'assessore alla Protezione Civile Riccardi. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella, in visita ai paesi colpiti dall'alluvione, li ha ringraziati stringendo la mano a nome di tutti ad una volontaria di Gradisca di Sonzo. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo ora al tempo. Cielo sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile sui monti. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi e 5 decimi, mare calmo con temperatura di 20 gradi. A Pordenone e Gorizia 24 gradi, a Udine 23 e mezzo. A Tolmezzo 21 gradi e mezzo, a Tarvisio 19, a Piancavallo e Sappada 14 gradi. Sul monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, sul monte Lussari 9 gradi. A Lignano e Grado 21 gradi, temperatura del mare nelle 2 località 22 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA regionale. Nel pomeriggio maggiore variabilità, specie verso la zona montana, dove saranno possibili locali rovesci e temporali. Non escluso qualche rovescio temporale anche sulle altre zone, specie tra alta pianura e zona orientale. Venti a regime di brezza. Il console generale degli Stati Uniti d'America di Milano, Robert Needham, ha effettuato una visita ufficiale al sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a Palazzo d'Aronco. L'incontro, è detto in una nota del comune, rappresenta un momento di notevole rilevanza nel rafforzare i legami tra la città di Udine e l'istituzione consolare, nonché per promuovere ulteriormente la cooperazione bilaterale tra i due paesi. Durante la visita, la prima del diplomatico americano nel capoluogo friulano, è stata evidenziata l'importanza di Udine come centro culturale e storico nel contesto della regione, nonché come punto di collegamento tra l'Italia e i paesi europei confinanti. Sarà un corteo che si snoderà lungo le vie del centro di Pordenone, il momento clou dell'FVG Pride 2023. L'appuntamento, in programma per sabato 10 giugno, si tiene per la prima volta nel capoluogo della destra Tagliamento ed è stato anticipato da diversi appuntamenti di sensibilizzazione. Secondo il programma, il corteo partirà alle 16, animato da 8 carri delle associazioni, e percorrerà le vie del centro seguendo un itinerario ad anello. Alle 19, a Parco Galvani, sono previsti gli interventi di chiusura. Seguirà un after party, festa finale, poi, a partire dalla mezzanotte, a Roveredo in Piano. E a Pordenone si parla di uno studio di fattibilità che ha l'obiettivo di portare il polo universitario nella zona del cosiddetto Bronx. È un po' desolata, è un po' vuota, come vede, a parte gli uffici non c'è nessuno, non mostra nessuna attività viva. Il cosiddetto Bronx in centro città, Pordenone è centro direzionale che ospita uffici ma con molti locali sfitti e in stato d'abbandono, potrebbe diventare sede dell'Università di Pordenone. Un primo passo c'è: il comune ha affidato a una ditta specializzata lo studio di fattibilità per capire tempi, modalità e costi di un eventuale insediamento di corsi e alloggi universitari. Un primo riscontro è atteso fra un paio di mesi. Paolo Candotti, presidente del Consorzio Universitario di Pordenone. L'esigenza è quella di portare l'università nel centro cittadino e quindi far vivere alla città la presenza universitaria, che è una presenza significativa, oggi concentrata nelle strutture di via Prasecco, dove sono ospitati 1600 studenti. Il piano di sviluppo della presenza universitaria a Pordenone porta a una crescita degli iscritti nei prossimi anni, a nuovi corsi sia per l'Università di Udine che per quella di Trieste, e quindi gli spazi di via Prasecco sono, diciamo, prossimi alla saturazione o già saturi. Le strutture individuate sono i locali di proprietà dell'INAIL. Potrebbero ospitare i nuovi corsi dell'Università di Trieste e lo studentato. Il vice sindaco di Pordenone, Alberto Parigi. Questa è una soluzione a dei tempi medio-lunghi, però noi stiamo lavorando anche a una soluzione a più breve termine, una soluzione ponte. Stiamo cercando di individuare un immobile per insediare almeno un corso dell'università, sgravare gli spazi di via Prasecco e raggiungere questo obiettivo di integrare maggiormente gli studenti con la città portandoli in centro. L'ipotesi sono gli spazi dell'ex convento di San Francesco. Nei prossimi giorni è previsto un primo sopralluogo. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di energie rinnovabili. Sono numerosi i finanziamenti regionali per incentivare la transizione, anche attraverso la costituzione di nuove comunità energetiche. Molto resta ancora da fare per mettersi al passo con il resto d'Europa, ma all'Università di Udine si stanno studiando soluzioni innovative. Nella transizione energetica verso il rinnovabile, se l'Italia continuasse col passo attuale, arriverebbe a centrare gli obiettivi di sostenibilità fissati dall'Agenda 2030 dell'ONU verso la fine del secolo, anziché entro la fine di questo decennio. E in questo quadro la nostra regione non brilla rispetto alla media nazionale, come spiega Marina Cobal, professoressa ordinaria di fisica dell'Università di Udine. L'Università Giulia parte da una situazione in cui non è proprio ai primi posti in Italia. Ci sono varie classifiche, ma diciamo non siamo mai nessuna tra i primi 10 per quanto riguarda per esempio la produzione elettrica con rinnovabili. Mi sembra che la percentuale sia intorno al 27% di produzione elettrica tramite rinnovabili contro una media nazionale che è più alta, intorno adesso al 38%. Adesso arriva il piano energetico regionale, abbiamo anche diciamo tutto il pacchetto FV Green. E diciamo in regione ci sono movimenti, per cui si può ben sperare che questa situazione andrà a migliorare. In regione si sta investendo sulle comunità energetiche, ma resta ancora tanto da fare. In Italia ce ne sono diciamo qualche decina, tra l'altro adesso stanno aumentando, diciamo erano una trentina funzionanti, altre 40 in approvazione, un'altra ventina in progetto. C'è da dire che contro le decine che ce ne sono in Italia, in Europa ce ne sono 9.500 circa già funzionanti, di cui la metà sono in Germania. Molti però i progetti innovativi allo studio, all'Università di Udine. Stiamo lavorando sia sul solare termico, però non fotovoltaico, ma concentratore solare. Abbiamo sviluppato uno specchio lineare che è un concentratore solare innovativo e poi un gassificatore molto piccolo per biomasse di scarto, quindi per poter riutilizzare tutti gli sfalci di città che attualmente i comuni diciamo pagano per eliminare. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Carlo Muscatello e Alessandro Martegani sono stati confermati rispettivamente come presidente e segretario dell'Asso Stampa Friuli Venezia Giulia per i prossimi 4 anni. Lo ha deciso nella sua prima riunione il nuovo consiglio direttivo dell'articolazione regionale della FNSI, sindacato unitario dei giornalisti italiani, che ha eletto anche le vicepresidenti Fabiana Martini, Vicaria ed Erika Kuliat. Il segretario Martegani ha nominato vice segretari Maurizio Beccar per il lavoro autonomo, agenzie e uffici stampa, Antonio Caiazzi per l'emittenza radio e TV e Marco Ceci per i quotidiani periodici al web. Il presidente Muscatello ha inoltre assegnato a Rauber la delega per la riforma dello statuto. Prende il via questa sera allo stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro il nuovo tour negli stadi di Tiziano Ferro, in cui la nota pop star festeggerà i suoi 20 anni di carriera presentando per la prima volta dal vivo il suo ultimo disco Il mondo è nostro, un appuntamento che richiamerà nella località balneare almeno 20.000 spettatori. L'apertura dei cancelli prevista alle 16.30 con l'inizio del il concerto alle 21. Nella band che accompagnerà il cantante suonerà anche il tastierista monfalconese Cristian Rigano, al fianco di Ferro da più di 10 anni. Lo abbiamo intervistato. Mio padre era un musicista, suonato tanti anni anche nelle navi da crociera, e quindi in casa mia, fin da quando ero bambino, ho sempre avuto tanti strumenti in casa, chitarre elettriche, bassi, tanti dischi, il giradischi con tanti vinili. Cioè, l'inizio è iniziato come un gioco, no? Giocavo a star sul palco, a far finta di suonare, a fare i concerti, e poi insomma è iniziato a diventare una passione vera, una cosa seria, e adesso è un lavoro a tutti gli effetti. Dove ti sei formato? Allora, inizialmente con un maestro privatamente, diciamo, poi ho fatto un po' di anni di conservatorio, al Trattini, a Trieste, ma non mi sono diplomato perché ho capito abbastanza presto che non mi interessava tanto la musica classica in generale, ma ero appunto molto più attratto dal pop, dal rock, da questo tipo di sonorità e di musiche. A un certo punto ho abbandonato gli studi perché ho iniziato proprio a suonare. Come sei arrivato poi nel grande giro, diciamo? Grazie ad Elisa, perché siamo partiti insieme, abbiamo fatto insieme praticamente il provino che lei è andata a fare da Caterina Caselli alla Sugar, l'abbiamo fatto insieme io e lei, piano e voce, e io da lì ho iniziato a suonare con lei, ho iniziato a fare i tour, ho iniziato a farmi conoscere. E con Tiziano Ferro, com'è andata? Proprio mentre registravamo il singolo Cure Me, nel 98 se non sbaglio, eravamo a Mogliano Veneto, c'era un grande studio lì di registrazione, e nel piano sopra lavorava sto ragazzo giovane che si chiamava Michele Canova, e lì ci siamo un po' conosciuti così, e un paio di anni dopo Michele Canova è diventato il produttore di Perdono di Tiziano Ferro, che è diventato subito un singolo di successo, e quindi al momento in cui Michele ha dovuto mettere in piedi una band per Tiziano, per farlo fare i concerti live, si è ricordato di me, e lì così è venuto l'incontro con Tiziano, e da lì praticamente non ci siamo più separati. Soprattutto in questa occasione c'è tanta attesa, tanta voglia di suonare, perché questo tour avremmo dovuto farlo nel 2020. Ci puoi fare qualche anticipazione? Sicuramente non mancheranno tutti i grandi successi di Tiziano. La scaletta è bella corposa, sono più di 2 ore di concerto. Nessuno resterà deluso, ecco. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. È uno dei pianisti italiani più amati e apprezzati a livello internazionale, con un curriculum di premi vasto e prestigioso. Parliamo del siciliano Giuseppe Guarrera, che si esibirà questa sera al Teatro Mira di Trieste con un programma che poggia sulle pagine per pianoforte di Schumann e Liszt. Appuntamento alle 20.30. Un road movie senza il viaggio, una storia di contrasti di padri senza figli e di figli senza padri, di mamme bambine e di bambini adulti. È tutto questo Billy, il film d'esordio di Emilia Mazzacurati, figlia d'arte del regista Carlo, scomparso nel 2014. Accompagnata da Benedetta Gris, che è protagonista del film assieme ad Alessandro Gassman e Giuseppe Battistone, l'autrice lo presenterà questa sera al Cinema Centrale di Udine prima della proiezione delle 20.15 e a seguire a Cinema Zero a Pordenone al termine della proiezione delle 20.45. Le abbiamo chiesto qual è la storia che ha voluto raccontare con questo lungometraggio. Il film parte sicuramente da questo rapporto all'inverso tra madre e figlio, cioè tra mamma molto bambina e bambino molto adulto, e poi dal microcosmo in cui è ambientata la storia, cioè questo appunto periferia del nord Italia di provincia che ha ispirato poi un po' tutta la storia, i personaggi e l'ambientazione. Da figlia d'arte, qual è stato il suo rapporto con il cinema? Ha sempre voluto farlo seguendo le orme di suo padre, oppure ci si è avvicinata più tardi? Mi sono avvicinata decisamente più tardi. Come spettatrice ho sempre avuto un rapporto assiduo con il cinema, nel senso che l'ho sempre molto guardato e continuo a farlo. Poi invece professionalmente parlando sono andata alla scuola Holden di Torino, ho studiato sceneggiatura, e da lì ecco ho iniziato a pensare di fare un lavoro. È stata una cosa abbastanza graduale questa. E come le è venuta l'idea di questo film? Io avevo fatto un piccolo cortometraggio dopo la scuola che si chiamava Manica a Vento, e da lì ho pensato di farne un altro, e piano piano ho iniziato a costruire un piccolo nucleo di personaggi che piano piano si è sempre più ampliato, e alla fine insomma ecco è diventato un lungo. Poi alla fine, ripensandoci anche dopo e parlandoci dopo, perché poi delle volte vengono fuori delle cose anche in maniera un po' inconscia, ecco, io credo che quello che volessi raccontare sin dall'inizio è di questo fatto, come dire, di come una perdita, un fine vita possa in qualche modo poi diventare diventare l'inizio di qualcos'altro. E da esordiente com'è stato dirigere due attori già affermati come Giuseppe Battistone e Alessandro Gassman? Sicuramente noi abbiamo fatto un lavoro fra tutte le generazioni, che poi è un po' quello che succede anche in Billy, dove ci sono dai più piccoli ai più grandi tutti insieme, quindi lo stesso lavoro è stato fatto un po' dietro le quinte. Sicuramente è stata una delle parti più belle quella di lavorare con gli attori, sia quelli più affermati già, sia quelli magari esordienti come i ragazzi. Sono oltre 400 i partecipanti all'undicesimo raduno degli escursionisti seniores delle sezioni del Club Alpino Italiano di Friuli Venezia Giulia, Veneto e Alto Adige, che quest'anno si svolge a Montenars. Gli escursionisti, alcuni arrivati anche dalla vicina Austria, sono impegnati su tre itinerari con diversi gradi di difficoltà: il Sentiero dei Roccoli, il Monte Campeon e il Monte Quarnan. Ci racconta il senso dell'iniziativa il coordinatore dei gruppi seniores del CAI regionale, Elio Candussi. Questo evento è il raduno dei gruppi seniores del CAI dell'area del Triveneto, un raduno che si svolge ogni anno e quest'anno è capitato a Udine. Quanti sono nella nostra regione i soci seniores del CAI? I gruppi sono 4 a fronte di 27 sezioni del CAI di tutta la regione. I soci in età seniores, cioè over 65, sono circa 4.000 in regione. Il ruolo dei soci seniores è sempre più importante oggi all'interno del CAI? Certamente. Infatti il numero di adesioni è sempre più presente e noi riusciamo a organizzare spesso delle escursioni anche in corriera da 50, quindi non sono pochi. Le sezioni più attive sono Gorizia e Udine. Quanti sono i partecipanti all'evento di oggi e ci sono delegazioni quindi anche da altre regioni ma anche dall'estero? I partecipanti sono 420, quindi un bel numero anche per un richiamo del territorio, no? Per far conoscere, perché arrivano da tutta il Triveneto, il più lontano arriva da Merano e da Vicenza se vuole, e poi dovrebbero arrivare anche dall'Austria, da Villacco. Il motto dei gruppi seniores, di tutti quanti, è slow and soft, che condensa in tutto il nostro spirito escursionistico. Noi facciamo le escursioni non per arrivare in meta, ma per godere del percorso. Concludiamo con lo sport basket. In programma alle 20 al Palacarnera, gara 3 di semifinale playoff promozione tra Apu, Udine e Forlì, con i bianconeri friulani sotto di 2-0 e costretti a vincere. Per la scherma sarà la friulana Michela Battistone, la prima tra le atlete di punta del Friuli Venezia Giulia, a salire in pedana agli assoluti italiani di La Spezia, che prenderanno il via oggi e metteranno in palio 12 titoli individuali e altrettanti a squadre nel campionato di A1. È tutto per questa edizione del Giornale Radio, redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Beers, con la collaborazione tecnica di Mauro Ciccarelli. Collaborato in redazione Daniela Sossi. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.